piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare, per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni. Poi ci sono i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, una frase del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa mentre presentava le misure del decreto rilancio per far riprendere l'economia dall'emergenza coronavirus, una frase che ha fatto molto discutere, da molti giudicata di cattivo gusto. So contenta che facciamo tanto divertire e appassionare, ma ricordati che senza sto intrattenimento placa emozioni c'era la guerra civile sotto casa, ha commentato Carolina Crescentini. È un'offesa profonda e irrispettosa per una categoria che più di ogni altra sta subendo gli effetti di una politica scellerata, ha polemizzato Vittorio Sgarbi. E se dal PD Matteo Orfini ha scritto su Facebook: sono anni che facciamo una certa fatica a spiegare che gli artisti sono prima di tutto dei lavoratori e non gente che ci fa tanto divertire, si attende ancora un commento da parte del ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Mio, quanto risentimento, sono l'ultima persona che per natura e per vocazione deve difendere le istituzioni, ma la frase del presidente Conte, che probabilmente è lievemente sotto pressione in questo periodo, gli artisti ci fanno divertire, appassionare, non credo ci fosse malizia, anche se ha suscitato una petizione, 10.000 artisti hanno firmato, hanno consegnato il 12 maggio a Palazzo Chigi questa petizione. Io penso che il motivo vero sia quello di richiamare attenzione su una categoria di lavoratori che in effetti è in grave sofferenza. Poiché l'artista sia qualcuno che debba far divertire, potremmo aprire una discussione filosofica su questo. Innanzitutto dovremmo intenderci sul concetto di artista, sul concetto di arte, sul concetto di divertimento, di uscita dalla consuetudine, di diversivo. Io amerò nel momento estremo della mia vita le persone che mi hanno fatto divertire, non quelle che mi hanno fatto riflettere, non quelle che mi hanno aiutato a comprendere i sensi profondi della vita. Viva chi mi ha fatto divertire. Io vorrei essere ricordato per aver fatto divertire qualcuno. Detto questo, oggi voglio parlare di artisti. Abbiamo già toccato questo tema in una precedente trasmissione, abbiamo capito che in questo momento, qualunque sia lo spessore, la dimensione dell'artista che noi vogliamo considerare, comunque parliamo di persone che hanno bisogno di fronte a loro di pubblico. L'artista non esiste se non ha il suo pubblico, l'artista può esistere in astratto, è un concetto assoluto, può essere una cosmica predilezione quella di essere artisti, ma se non c'è un pubblico che ti batte le mani, se non c'è qualcuno che ti guarda, che ti commenta, che ti segue, tu sei prigioniero del tuo concetto di essere un artista, ma il pubblico in realtà ha bisogno di spazi in cui stare assieme. Tanto pubblico equivale a tanto successo, a tanto giusto riconoscimento dello sforzo e dell'impegno dell'artista. In questo momento l'equazione più difficile da risolvere è quella di mettere tante persone assieme nello stesso posto. E quindi la categoria dell'artista, che già era abbastanza notevolmente penalizzata nel nostro paese, è ulteriormente penalizzata. Perché? Perché gli artisti non possono fare spettacoli, non possono rappresentare la loro arte, non possono esporre la loro arte. E allora cosa si fa? Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, ci sono molti escamotage, molte maniere che possono in qualche maniera supplire alla impossibilità di aprire teatri, di aprire i luoghi di assembramento piacevole di fronte a un artista o degli artisti che si esibiscono. Abbiamo metabolizzato il concetto di smart working. Per l'artista è lievemente più difficile, perché l'artista ha comunque bisogno di un contatto viscerale, epidermico, sensuale con il pubblico che lo segue. L'artista si alimenta nel momento dell'espressione, la sua capacità di mediare la realtà, proprio del fatto che senta, avverte il respiro, lo sguardo delle persone che stanno davanti. Non sono elementi indifferenti, non sto parlando di quisquilie, di bazzecole, di cose che nulla hanno a che fare con chi piega il ferro e forgia l'acciaio. È qualcosa che è importante per il nostro benessere, per la nostra serenità, per l'equilibrio generale del paese. C'è anche un'altra situazione, siamo stati abituati a vedere in fase acuta di distanziamento sociale e segregazione nelle nostre case, artisti che si esibivano in maniera gratuita per mostrare la loro partecipazione al malessere di tutti. Ma l'artista non può continuare in eterno a esibirsi gratuitamente. Il gratuito non può esistere per un artista, perché l'artista deve, come ogni altro essere umano, mangiare, nutrirsi, avere una vita dignitosa, alimentare la propria arte con possibilmente non il peso di dover poi sostentarsi ogni giorno. Di questo parleremo tra poco con un artista che mi ha scritto una lettera e che oggi accoglierò volentieri in questa trasmissione. Vi faccio sentire prima di tutto la sua voce. Dico soltanto perché me l'hanno scritto nella scaletta. Io ho una profonda ignoranza selettiva nei confronti della musica, del canto, della espressione artistica che si esprime attraverso le sonorità. Per paradosso faccio radio, ma ognuno manca qualcosa di fondamentale nella vita e a me manca questo. È l'aria cantata con il guardo, il cavalier dal Don Pasquale, cantava nella Sala Verdi a Milano nel 2015, ignara del fatto che da lì a 5 anni sarebbe stata chiusa a casa. Elina Garanca, Lucrezia Drei. Lucrezia Drei, che è una cantante lirica, chiedo scusa, ma immaginate che sto davanti con uno schermo in cui ho 50 finestre aperte e sto anch'io a casa mia, anch'io ho i miei limiti. Allora, la cantante lirica Lucrezia Drei mi ha scritto una letterina. Giorni fa mi ha scritto una lettera esponendomi un problema, che è il problema un po' generale di tutti gli artisti, ma non soltanto esponendo un problema, anche ipotizzando una soluzione che di buona lena e con buona volontà lei sta cercando in qualche maniera, assieme al marito Massimo Fiocchi Malaspina, che è un direttore d'orchestra e un maestro di coro, hanno cercato di fare qualcosa di concreto, aspettano che qualcuno dia loro la possibilità di rendere pubblica e diffondere ai loro colleghi questa loro iniziativa. Lucrezia Drei, chiedo scusa per le mie incertezze, ma ho avuto un problema proprio tecnico. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno Gianluca, non preoccuparti, anzi grazie per il paragone con una cantante ben più nota di me nel panorama internazionale. Mi piace confessare i miei limiti, lo sai perché? Perché è la seconda clip che avrei mandato e in questo momento ho fatto un po' di confusione. Quindi è una tua collega molto illustre. Assolutamente, però di un altro repertorio, insomma, lei è un mezzo soprano, quindi chi se ne intende un po'. E tu cosa sei? Perché guarda, non arrivo a capire. E tu cosa sei? Io sono un soprano. Sei un soprano? Vabbè, un soprano dovrebbe valere più di un mezzo soprano, scusa. No. Con due mezzi soprani non ci fai un soprano. No, beh, ci sono un sacco di battute che girano nel mondo della lirica, ma assolutamente no. È semplicemente la voce più acuta, quella del soprano, e la voce più grave. Comunque, quella che cantavi, Don Pasquale, eri tu senza sì, dubbio. Assolutamente ero io. Ecco, perché mi hai scritto? Cosa mi hai scritto esattamente? Perché sono stato colpito, nessuno scrive lettere così accorate e così dettagliate, solo scrivono per dirti, per fare le maestrine. Oggi mi ha scritto una dicendo: hai parlato del Covid in Corea, non hai detto che erano i gay essere stati contaminati. Mi ha fatto soltanto pena la persona che mi ha scritto. Tu perché mi hai scritto? Dunque, innanzitutto presentati, perché... cosa fai? In quale città ti produci? E qual è il tuo iter professionale artistico? Allora, come hai detto, sono Lucrezia Drei, Sono una cantante lirica da tutta la vita, vivo a Milano, dove sono nata, anche se il mio lavoro chiaramente è un lavoro in cui non si vive in nessuna città, si viaggia in tutto il mondo, in tutta Italia, continuamente, ci sono molti artisti colleghi che vivono nelle parti più disparate del mondo, dove li ha portati il loro mestiere. E, ti ho scritto in primo luogo perché sono una tua grande fan, ascolto il tuo programma da tantissimi anni, e quindi ho pensato, dopo aver sentito il programma di qualche settimana fa in cui parlavi del teatro, che potesse essere il luogo adatto dove per primi uscire allo scoperto con questa nuova idea che abbiamo avuto. Noi abbiamo pensato, chiaramente siamo rimasti come tutti gli artisti bloccati in casa da questa situazione, il che crea i problemi che ha creato a tutti, ora non è che gli artisti soffrono più degli capito, altri. Tu rappresenti una coppia di artisti, anche il tuo compagno è un artista. Sì, anche il mio compagno che è collegato, che fa la stessa cosa, lui non è cantante, è direttore di orchestra, direttore di coro, pianista e un sacco di altre cose. E il nostro è un mestiere in cui le figure come la sua sono quelle, insomma, i factotum del teatro, sono quelle che vengono, che si occupano di tantissimi aspetti della messa in scena di uno spettacolo. Ecco, nei mesi di reclusione in casa, che facevate? Tu cantavi, lui suonava il piano, dirigeva te stesso. È una grande fortuna, perché molti miei colleghi non hanno la fortuna di essere sposati con un pianista o avere un pianista in casa, quindi non hanno neanche potuto accompagnarsi. C'è chiaramente qualcuno che sa suonare il pianoforte, ma alcuni no, e poi suonare il pianoforte in modo, insomma, professionale è un'altra cosa. Quindi abbiamo studiato molto, abbiamo registrato dei video, non abbiamo cantato dal balcone, anche perché siamo in centro a Milano e è un po' difficile, qui ti avrebbero forse lanciato delle secchiate d'acqua, però abbiamo registrato molti video, studiato e poi a un certo punto ci siamo stancati di stare in casa, perché più che di stare in casa, di studiare a vuoto, diciamo, come dicevi prima, confrontarsi col pubblico è una necessità. Cantare dal balcone è l'espressione di una necessità profonda di chi fa questo mestiere, che è un mestiere performativo, che esiste se qualcuno ti ascolta. Noi tante volte diciamo, ci domandiamo perché cantiamo, a volte ci rispondiamo per noi stessi. Io credo che questa frase sia vera in parte, noi non cantiamo mai. Sì, come le donne che dicono mi faccio bella perché per me stessa, mi vesto bene per me stessa, metto le guepier per me stessa, dai, non ci prendiamo in giro. Un artista esiste se esiste qualcuno che lo apprezza, che lo segue, se no alla fine chiunque di noi può illudersi di essere un artista o dire a se stesso sono un grande artista, è crudele ma è così, penso. È così, non del tutto, perché chiaramente c'è una parte in cui noi ci confrontiamo con la nostra autocritica e noi cantiamo per soddisfare il livello che abbiamo in mente noi stessi, quindi ci confrontiamo con noi stessi, è un po' quello che succede se uno pensa ad esempio di aver cantato male, però gli altri gli fanno i complimenti e comunque non sei davvero soddisfatto. Però il confronto col pubblico è fondamentale, è necessario, noi prendiamo energia dal pubblico quando cantiamo, quando recitiamo, uno spettacolo è molto molto diverso, ha una riuscita diversa a seconda di come reagisce il pubblico. Allora fermati solo un secondo, io lancio intanto al pubblico che ci ascolta un amo a cui spero che molti abbocchino. Oggi non ho chiamato Lucrezia Drei soltanto per fargli raccontare la sua storia, perché lei è portatrice di un'idea. Vorrei che gli artisti che ci ascoltano, saranno in tanti, anche in altre branche dello spettacolo, non soltanto cantanti lirici o direttori d'orchestra, in qualche maniera, se in questo mese e mezzo di distanza dalla precedente trasmissione hanno messo a punto qualche idea, perché il problema è veramente grosso. Si riaprirà gradualmente molte delle attività che impegnano l'umanità, che portano risorse all'umanità, ma io penso che in questa catena chi decide i regolamenti, chi valuta le opportunità, terrà naturalmente l'espressione artistica in coda, perché naturalmente di fronte a chi fa il pane, a chi costruisce gli oggetti utili e indispensabili, a chi organizza il lavoro degli altri, si pensa, perché in fondo l'arte può aspettare, gli artisti poi possono anche cantare dal balcone e poi c'è Netflix, c'è YouTube, ci sono tante cose. Non è esattamente così, è qualcosa di fondamentale, che quando ci mancherà, come oggi ci manca la libertà, ci mancano alcune alcuni ammortizzatori alla nostra mestizia di cui non avevamo mai fatto conto: poter fare una passeggiata, andare in riva al mare, andare a fare un giro in montagna, abbracciare una persona. Sembravano tutte attività garantite, quindi nessuno pensava che ci mancassero. Ci mancherà molto anche andare a vedere uno spettacolo, seguire dal vivo una rappresentazione, entrare in una mostra d'arte, avere un contatto diretto con l'emozione collettiva che assiste a una mediazione sublime della realtà, o perlomeno che spera di essere sublime. Allora andiamo avanti, Lucrezia, che ho chiamato il pubblico. A un certo punto, dopo mesi che tu cantavi e lui suonava, avrete pensato, immagino, non potremo continuare ancora per tanto a fare questo, perché? Perché ci essicchiamo, alla fine non possiamo fare l'opera dal balcone. Cosa vi siete fatti venire in mente? Ora quello che sto per dire chiaramente sembrerà in contraddizione con tutto quello che hai detto fino adesso, assolutamente egregiamente, e che è vero. Cioè, noi abbiamo bisogno del contatto dal vivo e il pubblico ha bisogno di venire a teatro, anche se magari per un mese questa cosa ce ne si può dimenticare, però dopo un po' diventa una necessità, come dissero in tanti, niente di più futile e niente di più necessario del teatro. Questo problema noi non siamo, insomma, le persone atte, preposte a risolverlo. Bisogna che si mettano insieme autorità e dirigenti dei teatri a cercare delle soluzioni pratiche per affrontare il problema di ritornare dal vivo. Noi abbiamo trovato abbiamo pensato, insomma, una soluzione per quello che è un problema molto ingente, anzi più di un problema. Uno è quello che dicevi all'inizio, la remunerazione degli artisti, cioè metterci in streaming gratuitamente, diffondere il nostro materiale sempre gratuitamente è bello, trasmette un messaggio di vicinanza e di sostegno al pubblico, però non è quello non che vi ci mette la gallina nella pentola, è chiaro questo, e alla fine anche solo, voi avete bisogno. Rischia di far passare il messaggio che poi è quello che era sotto, insomma, che è stato percepito, diciamo, da questa ultima dichiarazione di Conte, e rischia di far passare il messaggio che il nostro mestiere è un hobby, è un intrattenimento gratuito che ci deve essere, che comunque c'è, che accendi un qualsiasi mezzo di comunicazione e c'è qualcuno che cioè canta, tu sei una balla, ricca gentildonna che vive di rendita e ecco, tuo marito lo stesso, e così per sfizio, visto che vi annoiate, tu canti e lui suona, così. Esatto, e invece non è così, perché poi i colleghi hanno tutte situazioni diverse. Ora che mi sono lanciata in questa avventura di cui adesso parlo, vengo anch'io a contatto con realtà estremamente diverse, di prosa, di circo, di teatro di figura, di opera lirica, da tutta Italia, territori diversi, esigenze diverse. Allora, fermati un attimo, siamo arrivati al momento in cui devo dare la linea. Lasciamo sospeso quella che è la vostra iniziativa per un minuto scarso, poi diremo cosa vi siete inventati, te e tuo marito, e cosa state per fare per riempire questa zona intermedia, questa terra di nessuno, tra lo stare chiusi dentro casa e il momento, e tutti ci auguriamo che si riaprano i teatri, i luoghi in cui si fa musica, in cui si fa arte. A tra un istante. Zero zero ventiquattro, abbiamo ridato la giusta esistenza alla cantante Elina Garanca, che avevo citato a sproposito prima, che canta chiaramente la Carmen. Oggi parliamo di artisti, parliamo del problema della categoria degli artisti, che comunque sia viene fraintesa la loro disponibilità a darci sollievo durante la mestizia della segregazione a casa nostra, col fatto che loro eternamente devono fare quelli che ci sollevano in cambio soltanto del nostro applauso. Gli artisti hanno un problema serio, le aziende che producono arte e che affiancano gli artisti hanno un problema serissimo, anche noi presto avremo il problema serio che perlomeno chi di noi, la maggior parte poi con diverse gradualità, ha bisogno anche di questo alimento del bello, si troverà con delle forti carenze. Oggi rispondo alla chiamata di una coppia di artisti, che è Lucrezia Drei, che è una cantante lirica, e Massimo Fiocchi Malaspina, che sentiremo tra poco, che è un direttore d'orchestra, che hanno messo a punto un'iniziativa che serve a colmare il vuoto in questo passaggio tra fatelo al balcone, fatelo su Zoom, fatelo per gli amici, a tornate finalmente a suonare e cantare nei teatri. Prima però di raccontarvi cosa hanno pensato e immaginato, sento Marco da Mantova per dare spazio anche al pubblico. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono Marco di Mantova. Niente, io volevo spezzare una lancia per la signora che canta la lirica, perché anche mia figlia è un artista e suona il violino. E molte volte viene pagata anche dopo 6-7 mesi, cioè non considerando che per poter suonare uno strumento e cantare, come fa la signora, tutti i giorni bisogna provare 4-5 ore. Sua figlia come ha passato questi mesi? Mia figlia ha passato i mesi studiando il violino. Quindi è stata diciamo un'immersione totale nello strumento certo, e nello studio. Certo, perché se smette di suonare il violino anche una settimana, non è semplice. Immagino che sua figlia con questo impegno di preparazione e di studio sia la sua professione essere violinista, certo. Quindi non lo fa per andare a suonare il violino nei ristoranti, lo fa perché è il suo lavoro. No, è il suo lavoro, la musica in Italia è sempre stata considerata un po' la cenerentola delle materie, la musica, come dice lei, è un hobby che uno va a suonare perché non ha niente da fare. Quindi sua figlia ha un problema serio non soltanto di espressione artistica, ma anche di proseguimento della sua attività professionale, di mantenersi, diciamolo chiaro. Ma certo, adesso per fortuna è ancora a carico nostro, però il violino costa, perché un archetto per poco che costi, costa 1700-1800 euro. Cioè la revisione al violino costa. Quando lei vede un'orchestra di 50 elementi, come minimo ci sono 300-400 mila euro di strumenti, tutti personali. Questo è bene dirlo, grazie Marco che dà questi particolari, che tutti pensano che in realtà sia sempre un gioco, un passatempo, dai che vuoi, prendi un violino, suoni, prendi una chitarra, strimpelli, e con un po' di amici, adesso lo facciamo tutti a casa, siamo artisti. Ecco, è un impegno anche grosso dal punto di vista dell'investimento. Allora riprendo con Lucrezia Drei, ringrazio Marco. Allora ci dici esattamente, poi sentiamo anche il tuo compagno, cosa avete pensato? È caduta? È caduta, e allora sentiamo se c'è almeno Massimo Fiocchi Malaspina. Io non potevo. Sì, buongiorno. Vederlo. Ecco. Buongiorno, sì. Gianluca. Sua moglie è caduta, mi dispiace, spero che si rialzi. Non riesce a tirarla allora su lei da solo. Va bene. Spiego cosa state siamo nello inventati. Stesso luogo, in questo momento state in stanze separate. Siamo in stanze separate. Adesso, allora, come lei si ricollega, allora, riprendiamo il punto, lo ha lasciato Lucrezia. Innanzitutto si presenta, sì, che lei è Massimo Fiocchi Malaspina, allora, esattamente di cosa si occupa? Io sono maestro del coro, direttore d'orchestra, ho compiuto i miei studi musicali in conservatorio, pianista, compositore, insomma ho fatto la traversa e in questo momento alcuni italiani come il Teatro di Opera Lombardia, il Teatro Reggio di Parma, lo Sperisero di Macerata, sto facendo il maestro del coro, quindi la mia attuale direttore d'orchestra chiamata come freelance, insomma. Adesso immagino, Massimo, immagino che maestro del coro, alla luce di quello che stiamo vivendo e leggendo, è una delle cose più impossibili, che il coro canta e emette comunque sostanze che in questo momento vengono considerate pericolose, a rischio. Un coro non può cantare con le mascherine e distanziato di 2 metri l'uno dall'altro, immagino, è impossibile. No, si possono pensare delle soluzioni di emergenza, diciamo, che qualcuno ha anche ipotizzato e potrebbero funzionare utilizzando magari nuove tecnologie, però lo standard per cui siamo abituati non è assolutamente praticabile, e non lo è, secondo me, non dobbiamo raccontarcela, non lo è questa situazione andrà avanti a lungo tempo, e questa è la ragione per la quale profitto di questa emergenza a fine febbraio, direi, i primi giorni di marzo. Andiamo al punto, se no ancora non l'abbiamo detto, cosa vi siete inventati? Riflettendo un po' sulla situazione, ci siamo inventati On Theater. On Theater è una piattaforma per trasmissioni on demand dello spettacolo dal vivo. Io la sto vedendo avanti, ontheater.tv, è una, sì. Adesso c'è soltanto una pagina di presentazione, mi sembra. Esattamente, è una versione demo che adesso la piattaforma è attiva, però non è ancora online. Abbiamo pensato di provare a dare la nostra soluzione. Eravamo abbastanza contrariati del fatto che molti distribuissero tantissimo materiale di altissimo livello, davvero, che è frutto di lavori, di anni, di sacrifici, insomma, chi fa questo mestiere sa cosa significhi. Adesso parlo del mondo della lirica, ma dimentichiamoci la prosa, la danza, tutta l'espressione dello spettacolo dal vivo di cui è ricchissima. Tutto questo. Allora, posso chiederti, Massimo, sì. La tua telefonata purtroppo si sente malissimo. So che hanno recuperato e rialzato tua moglie, io faccio continuare a lei mentre provano a riprendere una linea decente con te, magari di questo qualcuno se ne occupi. Allora, Lucrezia, mentre richiamano tuo marito e trovano una maniera di telefonare, lui ha annunciato questa vostra piattaforma, una piattaforma digitale, ontheater.tv. A cosa serve e come funziona? Qual è la differenza rispetto a quello che già in qualche maniera è stato ipotizzato qualche settimana fa, mettiamo tutto su Zoom? Mi sembra innanzitutto una struttura professionale, seria, concreta e robusta. Come è articolato questo spazio? Dunque, in primo luogo questo è stato possibile perché siamo stati supportati da un provider internet che è Assolo Network, che ci crede, ci ha creduto e ci ha supportati e ci ha veramente creato la piattaforma finanziandola. Dopodiché noi ci siamo occupati di tutti gli aspetti formali, di come proprio gestire gli spettacoli all'interno della piattaforma, della vendita. La piattaforma non vuole in alcun modo sostituire lo spettacolo dal vivo, vuole offrire una soluzione in questo momento a chi ha bisogno di vendere i propri spettacoli, a chi ha bisogno di monetizzare anche spettacoli che sono stati già registrati, per cui noi riceviamo delle proposte da compagnie, anche da artisti singoli che magari si sono registrati i loro recital e sono in molti che lo hanno fatto e molti che intendono farlo ancora, e che è una cosa, diciamo, gestibile con poche persone e anche rispetto degli standard di sicurezza. Noi riceviamo questi video, facciamo una selezione fondamentalmente basata sulla qualità a video e audio, perché chiaramente... Cioè, create un palinsesto di spettacoli rispetto a quelli... No, chiaramente... usando un criterio anche selettivo, perché non potete metterci tutto, ci mettete quello che secondo voi può mantenere un certo standard di livello, se no chiaramente diventa un gioco. Se no diventa controproducente. Noi cerchiamo di, non chiaramente non facciamo concorrenza né a Netflix né ad altre piattaforme che vendono contenuti di livello altissimo cinematografici, però se vogliamo essere competitivi da questo punto di vista, chiaramente gli spettacoli devono essere registrati. Però dimmi che la singolarità rispetto a tutte, è che qua si può pagare il biglietto. Io vediamo, sì, se ho capito bene. Io sono un artista, magari, in un'altra, sì, vita. Ho un mio spettacolo che posso registrare con mezzi miei rispettando degli standard, perché la tua piattaforma richiede alcuni standard, spero, immagino, anche nella realizzazione. Te lo propongo, tu lo accetti, secondo te può entrare nel tuo, diciamo, teatro virtuale, perché questo, esatto, è. Io non è che te lo regalo, chi vuole vedere il mio spettacolo paga un biglietto, è un sistema, è un po' come un sistema di e-commerce legato appunto allo spettacolo virtuale, chi vuole seguirsi il mio concerto paga un biglietto e poi vi organizzerete per la distribuzione di quello che si ricava. Dunque, in primo luogo, per gli artisti e le compagnie, caricare gli spettacoli sulla piattaforma non ha nessun costo, cioè noi non chiediamo nessun contributo economico a nessuno, quindi noi selezioniamo gli spettacoli, poi stiliamo un contratto con gli artisti e le compagnie che abbiamo selezionato, carichiamo i loro spettacoli sulla piattaforma e li mettiamo in vendita. È ovviamente un lavoro di collaborazione, perché noi facciamo questa parte, cioè abbiamo creato la piattaforma, distribuiamo gli spettacoli, ci occupiamo degli e-commerce, tutto. Vabbè, questo tu comunque svolgi un servizio, quello sarà, vi organizzerete fra di voi come dare un senso a questo tuo servizio, mica il servizio deve essere gratuito, cioè non è che... No, però diciamo noi tratteniamo il minimo indispensabile per coprire quello che è il costo del servizio, ma certo, esatto, giustamente, è il costo del servizio. Anche la se io ti affitto un teatro, ti chiedo un affitto, mica te lo regalo, tu affitti la piattaforma, ed hai hai messo sul sistema di pagamento, mi sembra già qualcosa di importante. Sì. Adesso bisogna capire, ma avete avuto già, noi è la prima volta penso si dica ufficialmente che esiste questa realtà. Sì, adesso guarda, ci fermiamo, sono i 45, un altro minuto. Nella terza parte della trasmissione, visto che ormai siete gli unici protagonisti, te e Massimo Fiocchi, visto che gli artisti che si piangono tanto addosso, si sentono reietti, questa mattina sono scomparsi, non abbiamo ricevuto una telefonata, a parte il signore con la figlia violinista. Peggio per voi, che devo dirvi? Io continuerò a parlare di due artisti che invece piangersi addosso e lamentarsi hanno messo su qualcosa che comunque andava pensato a livello istituzionale. Loro l'hanno fatto. Cosa manca perché questa cosa possa funzionare? Ce lo diranno tra un istante. Melog 800240024. Ringrazio intanto Filippo Reggi, Miriam Lucchetti che mi permettono di andare in onda da Milano, Roma c'è Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Io sto parlando con Lucrezia Drei e Massimo Fiocchi Malaspina, una coppia di artisti che in questi due mesi di segregazione, invece che attendere che la soluzione venga dall'alto, hanno messo su un'idea. Hanno realizzato e costruito una struttura, mi sembra, realizzata con criteri professionali, seri, solidi, non è un gioco da smanettoni. Una piattaforma di piattaforma digitale di streaming on demand di contenuti teatrali a pagamento, si chiama ontheater.tv. Gli artisti possono proporre il loro spettacolo se realizzato secondo gli standard che richiedono i nostri amici, potrà essere messo in questo palcoscenico virtuale. Le persone potranno seguirlo, loro si occuperanno di pubblicizzarlo attraverso appunto la rete, e il pubblico pagherà un biglietto, giustamente pagherà un biglietto perché il biglietto l'avrebbe pagato anche andando a teatro. In questo caso lo pagherà andando a vedere lo spettacolo momentaneamente, non sarà per sempre, nel loro teatro virtuale. Sentiamo Giovanni da Roma. L'ascolto. Giovanni c'è ma non c'è. Allora andiamo avanti. Allora Lucrezia, andiamo avanti, se hanno recuperato anche Massimo sentiremo anche lui. Lucrezia, vediamo di capire come funziona bene questa piattaforma e soprattutto cosa manca perché diventi attiva. Servono permessi, autorizzazioni, lascia passare, puoi farlo? Già tu potresti andare online e cominciare a raccogliere gli spettacoli da oggi oppure no? Già analizzando il materiale che ci sta pervenendo, perché abbiamo già cominciato a contattare gli artisti e le compagnie. Per poter fare il lancio mancano semplicemente delle autorizzazioni, mancano delle autorizzazioni burocratiche che non dipendono chiaramente da noi e che stiamo aspettando, però siamo molto ottimisti. Ma che tipo di autorizzazione, per capire cosa serve per fare una cosa del dunque, genere? Dunque, intanto noi veniamo dal mondo del teatro e è la prima volta che facciamo gli imprenditori, quindi ci siamo dovuti affidare necessariamente a uno studio legale, a uno studio commerciale. Fare un'azienda, questo è chiaro. Abbiamo dovuto aprire un'azienda. Questo è un problema logico. Questo è logico. Chiaramente. È logico. No, ma la cosa è estremamente complessa perché c'è tutta una questione legata ai diritti d'autore, per cui stiamo avendo rapporti con la SIAE che si occupa del diritto d'autore, insomma, per cui ci sono delle però licenze. Anche che noi... Mogol e gli altri artisti dovranno rendersi conto che finché dura questa storia, cioè i grandi nomi e i grandi artisti notori che comunque la SIAE la prendono comunque possono stare tranquilli, ma se non si studia qualcosa di alternativo prima che si riaprano i teatri, si riaprano i cinema, si riaprano le gallerie, passerà del tempo, quindi suggerirei, se qualcuno mi ascolta, di dare un occhio di attenzione a questo passaggio che è fondamentale. Infatti è uno dei problemi con cui veniamo in contatto, cioè non esistono normative dedicate a quello che stiamo facendo noi, quindi ci stiamo accordando per delle situazioni caso per caso, però non esiste una normativa per la vendita in streaming di spettacoli dal vivo a pagamento, non ci sono delle norme a cui appellarsi. Il problema è SIAE, la SIAE deve capire in che maniera vengono corrisposti poi i diritti SIAE. Sì, il problema è un po' SIAE, un po' delle biglietterie, un po' sono vari problemi, tutti risolvibili, diciamo, man mano che si presentano noi li affrontiamo. Però è ora che cominciate a fare sentire a livello pubblico, perché finché qualcuno non solleva un problema e i vostri colleghi, che vedo un po' stanchi questa mattina, che evidentemente tutti siamo bravi a dire ci vuole una soluzione, poi qualcuno propone una soluzione, iniziano subito le prese di distanza. Sentiamo Antonio da Napoli. Antonio, ascolto. Salve, dottor Nicoletti, buongiorno. Senta, io volevo esprimere il mio più profondo dissenso per questa misura, diciamo, che il governo deve devolvere, insomma, agli artisti. Insomma, quale misura? La misura è il bonus. Perché è in dissenso, scusa? Sono in profondo dissenso, perché c'è tanta gente, insomma, che ne ha bisogno. Non credo che il mondo degli artisti sia così povero. No, scusi, questo, su che basi lo dice? Sta esprimendo un suo punto di vista carente comunque di verifica sul campo. Gli artisti, secondo lei, non devono mangiare? Vivono soltanto del loro lavoro di artista? Ma c'è gente che soffre la fame. E perché loro non soffrono la fame? No, mi scusi, a parità non soffre la fame. Un violinista quanto la soffre meccanico? Assolutamente. Ma perché chi glielo fa dire? Vabbè, non Antonio, è quella fame. Sì, ho capito, per le cazzate non c'è tempo. Usate altri spazi per di queste banalità. Daniele, provincia di Trento. Buongiorno, allora, noi sono, diciamo, il manager di una compagnia teatrale professionale. Abbiamo anche il problema non solo del distanziamento, diciamo, del pubblico, avremo quindi nei teatri tra uno spettatore e l'altro, ma anche tra un attore e l'altro, perché ovviamente, come diceva lei prima, chiaro, certi spettacoli vanno ridisegnati e riscritti completamente. Allora, invece di ridisegnarli, ne stiamo inventando di nuovi e stiamo cercando di produrre 15 monologhi per uno spettatore alla volta. Quindi proprio nella relazione uno a uno, singolare, individuale. No, sono contento perché vede, dimostra che il mondo degli artisti comunque ha delle risorse molte volte di fantasia, di inventiva, che alcuni schemi mentali molto standardizzati non potrebbero concepire. Da una parte ci sono due artisti che hanno immaginato un teatro con biglietteria virtuale per fare spettacoli online, da parte un altro artista che riscrive completamente la struttura di una rappresentazione teatrale facendo un teatro personalizzato. È chiaro, sono momenti di passaggio, io non dico che si continuerà tutta la vita così, ma in questo momento, al di là delle idiozie che diceva l'ascoltatore di prima, che gli artisti sono già ricchi, quindi bisogna pensare ai poveretti, gli artisti hanno bisogno di mangiare tutti i giorni come altre persone. Sono ricchi quelli che sono molto famosi, molto noti, ma sono una punta rispetto a una popolazione vastissima. Adesso arrivano tante telefonate. Mariella, provincia di Siracusa. Buongiorno, allora io la trovo un'iniziativa splendida. Ci avevo pensato anche, non sono un artista, sono un architetto, ci avevo pensato anch'io a fare una cosa del genere. Allora, io ritengo fantastica perché permette peraltro di allargare il pubblico, perché ci sono tantissimi spettacoli che si svolgono soltanto in alcune realtà. Perfetto, si è autosegata da sola, va benissimo, applaude e dice Franceschini dovrebbe supportarli. Chissà se Franceschini li supporterà, speriamo, è il ministero preposto, dovrebbe dare un occhio di attenzione. Francesco, provincia di Bari, ascolto. Salve, noi abbiamo proposto alla Regione Puglia. Oggi abbiamo un problema sulle telefonate. Vabbè, vediamo se Massimo Fiocchi Malaspina mi aiuta a concludere questa telefonata, visto che abbiamo ancora due minuti. Se abbiamo recuperato il maestro? Sì, io ci sono, mi sentite? Benissimo. In questo momento mi trovo totalmente solo, senza interlocutori. Lucrezia Drei c'è al telefono. Ah, ecco, ci siete finalmente. C'è un momento di sta. Sì, ecco, allora vediamo di concludere. Okay. Mettiamo sul piano quelli che sono i punti ancora da diciamo risolvere perché questa cosa diventi funzionale. Vi siete fatti sentire a livello istituzionale? Avete parlato con qualcuno o questa è la prima volta che uscite allo scoperto? Diciamo che questa è la prima volta in cui usciamo veramente allo scoperto e quindi speriamo che qualcuno sia interessato alla nostra idea. Qual è il vostro interlocutore che vorreste che vi ascolti e quale tipo di diciamo intervento vi aspettate? Ma quando noi abbiamo sentito la prima dichiarazione di Franceschini 3 settimane fa che lanciava questa idea del Netflix della cultura, noi ci siamo detti, va bene, noi ci stiamo lavorando da inizio di marzo, quindi sarebbe bello potersi confrontare su io vi consiglierei di prendere un contatto col Ministero, perché magari stanno lavorando loro spendendo soldi per fare un'altra cosa che certo, già esiste. Certo. Tanto non mi sembra che il lucro sia il primo motivo che vi ha fatto mettere su una piattaforma. La piattaforma converrà più agli altri converrà più agli altri che a voi. Voi avete fatto l'investimento imprenditoriale su questo, ma adesso... Esattamente, noi abbiamo investito un po' di soldi, chiaramente, forse nel periodo meno indicato, perché non sappiamo cosa sarà del nostro futuro, diciamo, della nostra vita reale, però ci crediamo. Crediamo davvero che possa essere una possibilità. Tanti ci hanno risposto, ci siamo rivolti innanzitutto ai teatri di prosa, contattandoli personalmente, trovando dei database, e abbiamo avuto delle risposte veramente entusiaste. Stiamo venendo. Facciamo così, guarda Francesco, la sigla, sì Francesco, sua Massimo, la sigla ci porta via. Noi abbiamo lanciato questo sasso nel grande stagno delle preoccupazioni, vediamo se qualcuno lo raccoglie, saremo qui pronti a dare sviluppo e seguito alla vostra proposta. Ci sentiamo lunedì.